Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Ha chiesto di fare il grande sacrificio di continuare ad andare avanti e di cercare di risolvere i drammatici problemi di questa città. Altri sacrifici non me ne ha chiesti, ma questo mi pare che sia il più grande di tutti. Fino a 10 minuti fa speravo che alla fine fosse il colpo di teatro, no? Il guizzo di Berlusconi, che poi sa sempre guardare con grande attenzione alla gente, a quello che la gente si aspetta. E obiettivamente la gente di centrodestra si aspetta che ci sia una semplificazione, una riunificazione sul mio nome. Governare Roma, la Meloni è stata Berlusconi, Alemanno, ma di che stiamo parlando? Dai, Giachetti è un'altra persona che si presenta come la solita, la nuova faccia del vecchio, hanno distrutto Roma e oggi pretendono di salvarla. In matematica 23 è più grande di 8, col 23 vinci, con l'8 no. E siccome Berlusconi è bravo a far di conto come me, se c'è qualcuno che di fianco a lui lo vuole far perdere. Oh ragazzi, lo psicodramma di Roma, ma che bello spettacolo senza neanche pagare il biglietto. Lo psicodramma di Roma, Bertolaso, puntata numero 2979 dell'ovvia rinuncia che prima o poi ci sarà di Bertolaso. Però dai, è uno spettacolo mica male, Berlusconi ha detto pare a Repubblica ai suoi collaboratori: oh, non sono così rincoglionito come voi mi dipingete, non sono un vecchio rincoglionito come pensate. Excusatio non petita. Vabbè. Allora saluto Mauro da Bernareggio, che non conosco come Carnate, Bellusco, Smate Velate, Arcore, Vimercate, che ho frequentato di più, molto di più, però insomma Bernareggio so dove sta e un paio di volte ci sono anche passato. Saluto un po' tutti i nostri ascoltatori, no, giustamente vi dicono oggi tutti esperti amici di Prince. No, io non sono né amico né soprattutto esperto, anzi la sua musica non mi è mai piaciuta, devo dire, proprio zero. Però voglio dire, dai, omaggio a Prince, morto a 57 anni. Cioè, per esempio, ecco, invece sono sicuro che Vincino è uno che Prince lo ha apprezzato sempre tantissimo. Vincenzo, ciao. Come te, guarda. Come me, bene. Come te. Molto bene. Aderisco, guarda. Non... Aderisci proprio. Cioè, la canzone più famosa di Prince? Come te. Aderisco sempre. Dai, una canzone di Prince. Questa che senti, Kiss. Questa è terribile questa qua, va bene. No, come è terribile? Sì, no, dai, mettere angoscia, guarda, no, prima mattina, guarda, mi fa iniziare malissimo, tutto... mamma mia, c'è cioè, un cosa fa? No, mamma, ma no, mia. Ma no. No, ma sì, ti assicuro. Il genio del pop, è Purple Rain, no, quella là, era un po' meglio. Ma noi qua di prima mattina, vabbè, che vuoi da me. Mettiamoli come nelle radio anni 70. Ha chiesto Purple Rain, una grande richiesta da Mondello, no, Vincenzo. No, no, Purple Rain, per te, Roma, da Roma, Vincenzo, Roma. Per te, Purple Rain. Eccolo qua, vedi? Sono un po' diventato il disc jockey anni 70. Ma Vincenzo, vuoi dedicarla a una qualche signora? No, non, ma io non te l'avevo chiesta per sentirla, tu mi hai chiesto una canzone, io quella va perché insomma non... Vabbè, a chi la dedichiamo Vincenzo da Roma? Qua. A chi la dedichiamo Vincenzo da Roma? Vabbè, niente, basta. Va bene, a Costanza, dai. A Costanza, grande da Vincenzo da Roma per Costanza, ascolta Costanza. Allora, insieme a Vincino voglio salutare il direttore di Affari Italiani.it, Angelo Maria Perrino. Angelo, buongiorno. Eccomi, buongiorno, baci, baci a tutti voi. Uno dei più grandi esperti di Prince al mondo, Perrino. Sei troppo gentile, no, ma anch'io faccio parte di un'altra generazione, comunque sì, mi piace molto Prince, mi piace questo folletto piccolo e un po'... sgraziato nella sua, però innovato moltissimo, sì, grande Prince. E intanto sgraziato, beccatelo lì, insomma, beccatela di Prince. No, va bene, allora cari ascoltatori, Affari Italiani Positivi, voglio ricordare, vent'anni di storia, vent'anni, sì, si sentono, sei giovane, vent'anni. I vent'anni sono un'età importante, diventa adulto. Affari Italiani.it, siamo stati, come sai, i primi a puntare su un giornale internettiano, quando vent'anni fa l'abbiamo proposto. La parola internet poteva evocare ai più un detersivo oppure un, non so, un filo interdentale. E invece avevamo capito che il mondo della comunicazione, ma non solo quello, andava in quella direzione e che internet sarebbe stata la più importante rivoluzione nella storia dell'umanità. Eccoli qua, allora, vent'anni. Allora, apriamo il Parlamento, dai, che dobbiamo parlare di questo... Adesso vado a prendere queste notiziuole. Non so, vogliamo cominciare dallo psicodramma di Roma. Vincino, ma tu come lo segui questo psicodramma berlusconian bertolasiano? Devo dire, sono contento che sinora ha evitato la Meloni e Salvini, no? Come dire, non, sì, per poco ancora. Per non poco. Lo so se per poco, non lo so se per poco, perché potrebbe andare verso Marchini la storia, non... Sì, quello è vero, quello E allora, però Bertolaso ormai, dai, si sa che prima o poi Bertolaso... Però guarda, scusa, aspetta, le elezioni ancora non sono iniziate, la campagna elettorale non è aperta ufficialmente. Noi stiamo parlando di sondaggi a freddo, senza, con pochi manifesti, c'è un programma in giro, si sa qualche programma, qualcuno ha detto un programma, niente, cioè quella niente. quella che raccoglie curricula, no? Sì. Praticamente, perché si sono aperti la radio, quella che non era nel video. Non era nel video di Berlusconi, raccoglie il curriculum. Allora si è aperta una grande richiesta di posti di lavoro da parte dei 5 Stelle, no? E quindi tutti i 5 Stelle dicono: cavolo, vado io, mando il curriculum, no, per fare l'assessore, il brigadiere, l'appuntato. Come il brigadiere, l'appuntato? Loro sono là, gli zerbini dei magistrati, tutto quello che fanno i magistrati per loro va bene, assolutamente. Ma come siamo vicini al 25 aprile. segniamo c'è un pagione sul foglio che dice il 25 aprile di Bagnale dove lo festeggiano. Allora segniamo subito per far passare un magistrato che non ha aderito al fascismo. Segniamo per far passare un buon venerdì a Vincino su Twitter. Il Movimento 5 Stelle sono i peggiori zerbini dei magistrati. Cioè nel senso che non hanno così un'idea. Hai detto. Sì, perché non hanno un'idea, una cosa sulla su quel come dire, aggraviamo la situazione. Non hanno un'idea, Perrino, non hanno un'idea. Ma io invece vedo a Roma una situazione abbastanza chiara, mi sembra che tutto questo concorra a mettere in evidenza la candidata dei 5 Stelle, questa Raggi, infatti, che mi sembra molto telegenica, molto che conosce la città, ha già fatto esperienza in consiglio. A mio avviso sarà, non c'è partita. Bertolaso ieri io ho consigliato attraverso un tweet a Berlusconi di proporlo per la panchina del Milan. Non è male. Che si chiama Brocchi, caro Alessandro, difficilmente il Milan si diventerà un cavallo di razza come era una volta. Bah, chi lo sa, perché vuoi mettere il dito nella piaga adesso? Cioè, siamo una squadra al settimo posto e stiamo conquistando il sesto posto. Quindi, uno che si chiama Brocchi, scusa. Vabbè, Milan di Brocchi, lo so. La proposta della città della Raggi, me la spiega, visto che la proposta della città. Tutto. Ma non lo so, ma l'abbiamo anche intervistata. Ma non è iniziata la campagna elettorale ancora. Ma cosa vuol dire non è iniziata? Non c'è una proposta. Ma chi te l'ha detto? Non c'è una proposta, noi l'abbiamo intervistata e qualcosa capito, detto adesso non me la ricordo. Spiegami la proposta, te la ricordi, perché non c'è, non te la ricordi perché non c'è, questo è il punto. Ma non ci sono ancora proposte per la città, no, ma cosa vuol dire non ci sono proposte? Per esempio le Olimpiadi dice no, non vanno fatte, il debito una proposta che è negativo, non vanno fatte le Olimpiadi, sì, ho capito, ma che è una proposta, ma adesso io non sono, ma non so, ma chiediglielo a lei, non sono io mica l'ufficio stampa. Ma la chiesa a tutti quelli che la danno già vinta di chi è? Una campagna elettorale che non è iniziata, è al 28-23-24% senza campagna elettorale, di sondaggi che cambiano 5 punti in più, 5 punti in meno a secondo Vincino, dove li fai. Niente, è arrabbiato. Sì, perché Vincino ce l'ha con ma la non ce l'ho con nessuno. Ma no, ce l'ha con il Movimento 5 Stelle, a prescindere da Raggi, chi ci vede, le candidature reali sono quelle lui vuole Giachetti, radicale. Con chi sta Vincino? Con Giachetti, dai, si sa. Ok. No? Vincino, stai con Giachetti? È svenuto. No, non sono svenuto, ma come dire, io faccio allora l'autore giornalista, l'autore di satira, quindi io guardo, osservo e racconto quello che guardo e osservo. Dico che a questo momento proposte per la città, non ci sono, non è una proposta, è un'imbecillità. Ma Roma è un tale casino, Roma, che c'è poco da fare proposte, bisogna farsi carico di una situazione esplosiva dal punto di vista economico. Allora aspetta, segniamogliela così passa un altro venerdì, Movimento 5 Stelle, onestà non è una proposta, è un'imbecillità. Oh, dai, così poi dopo ma guarda che secondo me ti vogliono bene, è una trappola, guarda, tu gli inviti a questa la mattina presto per farmi le trappole, guarda. Ma no, le trappole, sì, ma sei adulto e vaccinato, sei maggiorenne, sai quello che dici, ma dopo sono post adulto e vaccinato, sono già rincoglionito totale. Comunque, guarda, come non è Berlusconi, però vi voglio far sentire questo del Movimento 5 Stelle. A Milano c'è un avvocato. L'avete sentito il rap? Angelo, l'hai sentito il rap di 5 Stelle? Divertente. Sentite il Movimento 5 Stelle come si lancia a Milano con il rap. Questa è la Milano che non se la beve, corruzione, inquinamento hanno vita breve. Questa è la Milano e ne vedremo delle belle, fanculo i vostri manager, porto un Movimento 5 Stelle. Questa è la Milano che non se la beve, corruzione, inquinamento hanno vita breve. Questa è la Milano e ne vedremo delle belle. Beh, adesso cambia. Porto un Movimento 5 Stelle. Voglio spodestare i privilegi di questi monarchi, voglio trasformare i vecchi scali in parchi. Non voglio cerchi magici, non voglio falchi, non voglio più che i commercianti prendano pugni sui fianchi. Voglio un programma condiviso dalla gente milanese. Voglio vivere. Ma dai, Vincino, questa è più moderna, è più tua, no? Ci disse pendolare. Voglio Niente, Vincino, eh? È più tua questa. Ma è sempre la stessa cosa, dai. Cioè un'idea, un sogno, un programma di, come dire, io voglio che Roma, la bella Roma multietnica, cosa, la Roma degli artisti, la Roma di quell'altro, non lo so, come dire, io ho vissuto stagioni anche a Roma, no? Ma stupende, meravigliose, per esempio la stagione di Nicolini, no? Che ha aperto le estati per 3, 4, 5, 6 estati sono diventati dei posti meravigliosi dove ogni sera c'era musica da ballare, quella era quella una proposta, vorresti. Un'idea, una Roma, la Roma da ballare, ma non è Roma Godona. Roma Godona. No, ma la Roma e Nicolini era bella, però scusami, Perrino la cultura, aveva la Roma del sindaco di Nicolini. Ma il problema sono allora adesso lo dico, adesso i debiti. Ma no, adesso io sono ancora più cattivo, Perrino, adesso mi fanno passare una brutta giornata a me. Sì. Il problema, non so, ce l'ho qui, non so se lo devo dire. Sì. Sono i romani che buttano, che sporcano le strade. Questo è vero. Che non puliscono. Cioè, se tu trovi la monnezza per strada, perché se tu trovi i romani, inteso insomma quelli che passano anche a Roma, anche quelli che. Che è contagiosa, devo dire. Ma dai, ieri sono salito in un autobus, 20 turisti, tutti dalle parti del nord. Sì. Unico che aveva il biglietto io. Tutti e 20, tutti tranquilli, tanto siamo a Roma e via. Perrino, tu la pensi così? Se no, cancella quello che ho detto, tanto siamo registrati, non mandare in onda niente, togli tutto. No, Perrino, cosa ne pensi? Ma sì, i romani hanno un'antica natura complicata, ma la colpa è anche di una classe dirigente che li ha guidati male. Infatti, il povero Tronca sta facendo miracoli, ma mi dice che è durissima. Però Angelo, scusa, l'altro giorno il Messaggero ha detto che ci sono, adesso credo, 1.700.000 multe non pagate. Per un totale credo di 3-4 miliardi mai riscossi di euro. Allora, se ci sono 1,7 milioni di multe mai pagate, ma affondate, sprofondate, cioè dov'è il senso civico? Appunto, il guaio è che tutte le precedenti amministrazioni, sia di destra che di sinistra, possiamo allinearle in questo non governo, sì. È ora proprio di cambiare, per quello il Movimento 5 Stelle, essendo una forza nuova, potrebbe rappresentare quella svolta che ci serve, se no se andiamo avanti in continuità... La Meloni ci ricorda Alemanno, Giachetti ci ricorda Meloni. No, Giachetti ricorda il radicale. Giachetti. L'unico, il più onesto dentro il raccordo anulare è Giachetti. Eccolo, vedi. Il radicale in questo, guarda, sul giusto. Perrino, sgarrato mai. Perrino, Giachetti è innominabile quasi. Cioè, per ora non è nei sondaggi, se sono credibili i sondaggi. Ma non sono credibili oggi, non è partita la campagna elettorale. Madonna mia. Eccoli. Che sondaggi fai? Senza i manifesti ancora fuori, senza che le proposte si sanno. Se Berlusconi c'ha in mano i sondaggi e vuol far fuori Bertolaso per quello e non sa come fare, è disperato. Ma non è vero, Berlusconi se era per i sondaggi l'avrebbe fatto fuori un mese fa, dai, no? Non è che Berlusconi sa pure lui che non è iniziata la campagna. Scusa, vedi le elezioni del 2013. Prima che iniziasse Berlusconi era al 10%. Vabbè. E poi dopo la guadagnata. La campagna elettorale è arrivata al 25%. Ma lui è l'unico che riesce a recuperare. Lui è l'unico. Allora, i romani hanno già dato con Marino. Dobbiamo andare al traffico. Poi vorrei farvi dire due stralci dell'intervista di Davigo al Corriere. Dopo al Fatto Quotidiano ha fatto un'altra intervista al Corriere della Sera. Incredibile. Davigo, tra poco. A Milano, mi voglio sentire il traffico, dai, sì, dai una botta. Milan, non riesco a capire tutto questo stupore per Brescello. La mafia, l'andrangheta al nord, è stata un'operazione di trapianto perfettamente riuscito da parte dello Stato italiano. Venghino, signori, venghino. Invece di 80, questo mese 100... 100 euro in più, venite tutti, siamo qui pronti, votateci. Milan, Matteo Renzi a Firenze lo chiamano il bomba, se non dici il nome bomba non lo conosce nessuno, neanche sua madre. Alessandro, se qualcuno dà a Salvini una ruspa, il pieno glielo faccio io. Vabbè, sta storia della ruspa, vogliamo risentirla ancora? Non so, magari convinciamo Perrino e Vincino. Lo sapete che c'è lo spot di Salvini con la ruspa? Io lo faccio sentire per capire se... Tu, Perrino, daresti mai il 2 per 1000 a un partito? No, basta. Cioè, quanti ne hai dati? Basta. No, basta. Rubano già abbastanza. Aiutiamo le associazioni che fanno un buon lavoro, sì. Vincino, tu daresti i soldi... Beh, i radicali, insomma, a Giacchetti... Ma come dire, potrebbe anche darsi radicale, ma non ha ragione, meglio di no. No, perché gli ospedali, le case di cura, perché Salvini ha fatto questo spot in cui parli, i protagonisti sono lui e ciao ruspa, a chi doni l'8 per 1000 e il 5 per 1000 e il 2 per 1000. Beccato, questo non costa Vincino, nulla. Tu dici più Salvini che parla con la ruspa e la ruspa gli risponde Ringhia. Una ruspa elettrica non la conosco. Allora, Perrino la pensa come Davigo. Qua, il Corriere della Sera, pagina 5, i politici rubano più di prima, solo che ora hanno smesso di vergognarsi. Davigo, e poi dice tante cose, no? In Italia, sentite qui, in Italia hanno vinto i corrotti, cioè proprio una resa totale. Davigo dice, tanto che Cazzullo a un certo punto dice, ma lei pensa davvero questo del nostro paese? Eh sì, è quello che mi rimproverano, hanno vinto i corrotti, caro Perrino. Dice la verità Davigo, lo vediamo tutti i giorni, basta seguire la cronaca e in effetti... Allora si rubava con più discrezione, si cercava anche una razza, adesso si ruba a man bassa. E la novità è che Davigo è un magistrato puro, diciamo, in senso stretto, un tecnico, non media con la politica. E quindi queste sue parole sembrano delle follie. Se vi ricordate, qui a Milano un po' di inchieste relative all'Expo sono state sospese per non turbare il buon esito della manifestazione. Quello è fare magistratura tenendo d'occhio il contesto. Davigo non è così, è un tecnico, potrà apparire cattivissimo, ma ahimè sposta la magistratura su toni estremamente radicali, estremamente duri. Credo che ne vedremo delle belle. Hai detto radicali, stai attento perché Vincino era pronto a scattare. No, perché altre due frasi: non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti. Questa è la storica di Davigo, che però dice ma va contestualizzata, se no mi danno nel matto. E altra frase storica: non ci sono troppi prigionieri, ci sono troppe poche prigioni. E dice, conferma, è un dato oggettivo, Vincino, cioè Davigo, che ne pensi? Non l'ho letto ancora questa intervista. È tutta così. Praticamente. Io penso, sicuramente te l'ho detto, lui ha una visione un po' così, un po' manichea, il bene e il male, magistrato puro, però è stato scelto lui e ora dovremo fare i conti con questo approccio. Sapete anche cosa propone? Propone questa, senti Vincino cosa propone, per scoprire i corrotti ci vorrebbero le operazioni sotto copertura, come per i trafficanti di droga o di materiale pedopornografico, cioè mandare poliziotti... dei finti imprenditori, in realtà sono poliziotti, a offrire bustarelle e se uno l'accetta, zac, arrestato. Non è male. L'abbiamo rifiutata questa cosa qua. Non è male, però. Assolutamente no. Come cioè, no? Perché? Ti inventi corruzione così per... No, te la inventi. Ti metto la prova. Allora, secondo me non è questo il compito dei magistrati. Non è questo il compito dei magistrati. Nella Costituzione, in tutto, non è quello di reprimere i reati, basta, non di inventarli. Non di come dire. Questa no, effettivamente mi hai fatto. No, ma guarda, se tu questa stupidaggine qua l'hanno già proposta i 5 Stelle, no? Ecco qua, assolutamente. L'anno scorso è stata bocciata, giustamente, secondo me, dai, non. Come dire, facessero le indagini serie sulle cose, come dire, non, ma non come l'agente provocatore, no? Un conto, cioè, ma sai, d'altronde sempre Davigo cosa dice? Noi siamo in un paese che non ha sconfitto ancora la mafia, non ha sconfitto l'Andrangheta, non ha sconfitto la Coma, perché non l'hanno capita ancora. Non hanno capito la Calabria, la Sicilia, la Campania, sarà la Puglia, che come dice sempre Davigo, Brescello non hanno capito, sarà no? perché come dice sempre Davigo in questa intervista, noi magistrati siamo come i cornuti, siamo gli ultimi a sapere le cose e poi scattano i processi. Eccola qui, questa non è male, siamo come i cornuti, ma basta guardare a volte, fermati. Dai, ci fermiamo qui. Io vi devo salutare e ringraziare Vincino. Stai attento a cosa twitti, per favore. Guarda, non adesso, di prima mattina. Adesso twitto quello che hai detto del Movimento 5 Stelle. Insomma, sono Zerbini dei magistrati. E che l'onestà è non una proposta, ma un'imbecillità testuale. Cose che hai detto tu, maggiorenne vaccinato. Grazie a Vincino, grazie ad Angelo Maria Perrino, affariitaliani.it. Le mie lunedì, le venerdì. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti ed è venerdì! È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Viva Milan! Allora, viva Radio 24! E allora, viva il venerdì! Allora, il venerdì tra l'altro della 155esima settimana decisiva per l'abolizione delle province! Confidiamo moltissimo qui a 24 mattino nella 156esima, quella che è alle porte. Dai, dai, dai lo schema Allegri, dai, dai, dai, ve lo ricordate? Da un po' che non lo cito. Dai, dai, dai, quando era il Milan e poi ha vinto tutta la Juve, tutto, vabbè, la Champions League no, però dai, dai, dai, forza, andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Venerdì 22 aprile, la maggior parte dei titoli sono dedicati a Draghi. Draghi, BCE indipendente, non obbedisce ai politici. Questa è la sintesi sul Sole 24 Ore in prima pagina, il contrasto tra Draghi e la Germania. La linea di Draghi, difendiamo l'Unione Europea, non la Germania, così sul Corriere della Sera, è la replica al ministro delle finanze tedesco Schäuble. Per Repubblica lo schiaffo di Draghi, la BCE non lavora solo per Berlino. E così il messaggero Draghi strappo con Berlino. Per La Stampa Draghi-Merkel duello sui tassi. Per venire alle cose italiane, il giornale Legittima Difesa. Il PD si arrende ai delinquenti. Tra l'altro di Legittima Difesa parleremo e approfondiremo alle 8:40. Comunque dalle 8:15 avremo con noi Luca Zaia per la Lega e Davide Armini del Partito Democratico. Libero, mancetta elettorale da 20 euro è la ripresa del messaggero ieri che diceva Renzi vuole alzare da 80 a 100 euro. Per il Fatto Quotidiano invece un'intervista al leader dei Fratelli Musulmani Amr Darragh, che vive a Istanbul. Fratelli musulmani però egiziani, e dice Giulio Regeni è stato immolato nella faida tra i servizi egiziani. Questa è l'intervista del Fatto Quotidiano. Voglio partire però dai Panama Papers, altra infornata di nomi sull'Espresso, ripresa da tutti i giornali, e sull'Espresso chi ti trovi tra i Panama Papers, tra gli elenchi dallo studio Mossack Fonseca Avvocati di Panama, trovi l'editore dell'Espresso tra gli altri. E l'Espresso lo scrive Rodolfo De Benedetti, il figlio di Carlo De Benedetti, uno dei figli di Carlo De Benedetti. Scrive spuntano altri 80 italiani ed eccolo qua, c'è anche Rodolfo De Benedetti, che però, scrive il settimanale, è collegato alla McIntyre Holding Ltd, società creata nel 95 dai consulenti di Mossack Fonseca nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche, che non ha mai fatto parte della holding di Via Ciovassino quotata in borsa. Ma il figlio di Carlo De Benedetti dice e precisa all'Espresso: la McIntyre è stata chiusa da diversi anni, in passato si era occupata di investimenti finanziari nel continente americano gestendo antichi risparmi di famiglia e la posizione di questi ultimi fu regolarizzata col fisco italiano nel 2003. E dunque, insomma, questo nome insieme ad altri come Domenico Bosatelli, numero uno del gruppo Gewiss, il costruttore napoletano Raffaele Raiola, l'immobiliarista Daniele Bodini, noto per i suoi investimenti a Manhattan, nell'ambasciatore di San Marino presso le Nazioni Unite, ci sono anche un ex manager della Ferrero, insomma continuano i nomi puntata per puntata dei Panama Papers, e questo nome, il nome di De Benedetti, sicuramente è il nome che ottiene più risalto sui giornali, anche il Corriere della Sera, la società offshore di De Benedetti, tutto dichiarato e trasparente, dice lui. Va bene, come detto, noi parleremo di legittima difesa, perché c'è il dibattito alla Camera per modificare la legge sulla legittima difesa. Tra l'altro, nel giorno in cui si è venuto a sapere, i PM chiedono l'archiviazione per Graziano Stacchio. Ve lo ricordate, il benzinaio che per sventare la rapina nella vicina gioielleria uccise un rapinatore, sparò ai ladri in azione, la procura lo scagiona. È stata chiesta l'archiviazione per Stacchio, che uccise il bandito che stava assaltando la gioielleria. La sua linea è sempre stata: mi sono solo difeso. E tra l'altro, vabbè, la vicenda non è ancora chiusa, però la richiesta d'archiviazione, ora ci dovrà essere il pronunciamento del giudice. Sulla legittima difesa si discute molto, si litiga. Mi ha colpito l'articolo di Repubblica di Fabio Tonacci a pagina 8 riguardo ad alcune statistiche. La legittima difesa, sapete, spesso le polemiche sono per gente che entra in casa e quindi viene, c'è la reazione di chi ha un'arma. Allora, sentite qui, per gli appartamenti svaligiati, sapete quante volte viene pizzicato, viene beccato dalla polizia, dalle forze dell'ordine, chi svaligia in un appartamento? Succede nel 2,7% dei casi. Vi hanno svaligiato la casa? Mettetevi comodi. La possibilità che venga scoperto il colpevole in tempi brevi è prossima allo zero. Solo nel 2,7% dei casi le forze dell'ordine trovano il ladro prima della fine dell'anno in cui è stato commesso il delitto. Per le rapine va un po' meglio, la media sale al 24,1%. Per i borseggi invece siamo al disastro. Nel caso dei borseggi il responsabile finisce davanti al giudice 2 volte su 100, solo 2 volte. E il punto è che chi viene preso, tra attenuanti generiche e sconti di pena, resta in carcere pochissimo, qualche mese al massimo, poi di nuovo fuori. Ecco perché infatti i borseggi sono aumentati, sono gli scippi proprio per strada, perché sono anche poco puniti, e dunque a lei. Mentre voglio saltare sulla stampa per raccontarvi quello che non è il premio Mani sul volante, ma neanche il premio Mani sul manubrio, ma sentite qui cosa si è escogitato un vigile a Torino. Si parla di multe, cari italiani, di multe. Pagina 19 della Stampa. Il vigile che fa il record di multe con la telecamera fai da te. C'è un vigile a Torino. C'è Peter Mescafè, ha già lanciato delle imprecazioni sul titolo. Aspetta che ti leggo. Aspetta qui che ti leggo. Senti un po' qui. C'è un vigile a Torino, e non è l'inizio di una barzelletta, ma è una storia vera, che si è montato una, tutto fai da te, ha fatto, infatti il comando lo ha scaricato, no? Una telecamera sulla sua moto, e lui passa tutto il giorno, va in giro in moto, quindi in borghese con la moto, non, ma anche se fosse con la divisa, cioè tu lo vedi, passa con la telecamera, lo fa da un anno, si è montata la telecamera, forse per far più multe, forse per fare bella figura, sul telaio della moto di servizio, no, sul telaio almeno della moto di servizio, la attiva con un pulsante agganciato al manubrio grazie a un elastico giallo. Tac! Va in giro per la città e poi a sera, a casa, guarda le immagini e pizzica tutte le targhe in divieto di sosta, quello che fa l'infrazione, e scrive le multe da casa con una, insomma, la multa differita. La prima cosa che fa, intanto si tiene i filmati infischiandosi bellamente della privacy. E poi non c'è verifica minima se si trattava di semplici fermate, che codice alla strada sono consentite, o divieti di sosta veri, perché tanto quando passi e fai la multa a strascico. Fa il record di multe, i vertici lo difendono, è un ottimo elemento, lui adesso non parla con nessuno. Sta di fatto che qualcuno l'ha anche scaricato, dice il comando lo scarica, dice ha fatto tutto da solo, e capito, il vigile che si monta la telecamera e zac zac zac zac zac gira per la città, e poi di sera, quando evidentemente non ha niente di meglio da fare, prende nota di tutte le riguarda i filmati, ore e ore di filmati, e spedisce multe. E Ale, questo succede a Torino, lo racconta la stampa. Ma il premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pinzare della giornata, eccolo qua. Condannato a 30 anni per omicidio, il detenuto fa il tirocinio in tribunale. Luigi Ferrarella, pagina 25 del Corriere della Sera, racconta questa storia iniziando proprio così. Prima di indignarsi o di sorridere, reazione entrambe possibile, almeno finire di leggere, perché è un complicato incrocio tra condivisibili percorsi di rieducazione dei condannati e improvvide modalità concrete di questi programmi. Da qui nasce l'inedito, l'assegnazione di un detenuto che sta scontando in carcere 30 anni di condanna per un omicidio a colpi di Kalashnikov a fare il tirocinio legale alla scuola di specializzazione per professioni legali, proprio nella stanza di un giudice di uno dei più delicati uffici del tribunale, l'ufficio GIP, dove non si fa che maneggiare intercettazioni segrete, preparare segreti arresti futuri, entrare nelle carceri, svolgere interrogatori coperti da segreto. Insomma, una situazione surreale, per cui si ignora chi sia questa persona e lo fa lavorare tra i segreti del GIP. 30 anni per omicidio e fa il tirocinio nella aula dove ci sono tutti i segreti. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi! Omila, dammela a me sti due rini, Maremma, e ci devo andare a comprare la schiacciata dal panaio, andiamo! E vabbè, viva la schiacciata. Allora, cari ascoltatori, mandateci le vostre sigle al 349-238-6666. Ne stavo ascoltando alcuni dei vostri sfoghi durante la pubblicità. E Vincino, niente, sempre lui nei vostri bersagli. Va bene, le faremo ascoltare a Vincenzo la prossima volta che lo invitiamo, con tanto amore e tanta passione. Allora, cari amici, Draghi e la Germania, questo è il titolo principale che trovate un po' ovunque, come racconta Alessandro Merli a pagina 3 del Sole 24 Ore. Draghi ha detto questa frase: noi non obbediamo alla politica, non obbediamo ai politici, ma obbediamo alla legge. Perché Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha dovuto e ha voluto precisare questo? Perché ha voluto replicare alle critiche che arrivano dalla Germania sulla politica monetaria e anche a una sorta di attacco personale, perché Wolfgang Schäuble, ministro alle finanze, in qualche modo addirittura ha accusato, come racconta Merli, il presidente della BCE di avere provocato il successo elettorale del mese scorso alle regionali in Germania del partito anti-immigrati AfD. E Draghi, che ha incontrato Schäuble venerdì scorso a Washington, ha osservato che il ministro ha fatto poi una parziale marcia indietro, ma ha ribadito appunto: noi obbediamo alla legge e non ai politici. La Merkel ha detto è giusta l'indipendenza della BCE, in qualche modo per smorzare i toni di questa polemica. Il dibattito però, ha aggiunto la Merkel, in Germania è legittimo. Su tutto questo, sulla situazione anche economica, c'è un'intervista oggi del Corriere della Sera a Marco Ascione, a pagina 3, a Roma. Romano Prodi, che parla prima dell'Italia, dice di tutte le riforme che ci può salvare, una su tutti è la riforma della burocrazia. Quante volte si è sentita questa in 30 anni? Il paese ha difficoltà a decidere in tutti i settori, così dice Romano Prodi. La vera questione anche nei dibattiti del referendum era: non ci fidiamo dello Stato e della sua capacità di giudizio. Poi dice: io sono andato a votare al referendum, ho votato no, Romano Prodi, e sul referendum di ottobre sulla riforma della Costituzione dice: osservo che il dibattito si sta spostando su un braccio di ferro tra le forze politiche, non sul merito. Ricordo che solo che le riforme costituzionali debbono durare molto e non possono essere mirate solo all'interesse di chi possiede la maggioranza del momento. Sulla situazione economica internazionale ci vuole uno scatto decisivo che ci faccia affrontare il problema dell'occupazione, e si può fare solo con una politica europea diversa che non c'è. La colpa non è dei trattati, ma di una politica sbagliata, dice Romano Prodi. La Germania ormai da anni applica e fa applicare una politica di austerità che non è adatta alla situazione di depressione in cui ci troviamo. Invece la banca centrale ha capito il pericolo della stagnazione prolungata e fa di tutto per evitarla. Ha evitato il disastro, ma ha esaurito le sue munizioni. Dunque Prodi dice: c'è un rischio di stagnazione secolare e Draghi ha evitato il disastro, ma le munizioni ora sono finite. Così Romano Prodi. Vabbè, abbandoniamo questa polemica e rituffiamoci nel mai risolto problema del dibattito tra politica e magistratura. Qualcuno dice lo scontro tra politica e magistratura, perché Pier Camillo Davigo, neo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che due giorni fa sul Fatto Quotidiano ha fatto un'intervista molto dura, oggi replica, intervistato da Aldo Cazzullo, fa un'intervista spettacolare a mio modo di vedere, in una pagina intera, pagina 5 del Corriere della Sera. Il titolo è questo: i politici rubano più di prima, ma ora non si vergognano. Sentite qui il Davigo pensiero, è una bella intervista lunga una pagina. Intanto parla di Mani Pulite. Nella Prima Repubblica, se non altro, si riconosceva la superiorità della virtù. Quando Tanassi fu arrestato e parlò di delitto politico, io non capivo cosa dicesse. Poi ho realizzato che intendeva dire: è un delitto politico perché vado in galera solo io. E qui dice Davigo: noi magistrati siamo come i cornuti, siamo gli ultimi a sapere le cose, perché quando le sappiamo partono i processi. Dopo l'arresto di Mario Chiesa, Craxi disse che a Milano non un solo dirigente del Partito Socialista era stato condannato con sentenza definitiva. Poi arrivò il Mariuolo e nessuno esplose in una fragorosa risata. Il velo dell'ipocrisia teneva ancora. Ora invece non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi. Rivendicano con sfrontatezza quel che prima facevano di nascosto. Sì, ma lei, Davigo, disse la famosa frase: non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti. Certo, ma in un contesto preciso, se no passo per matto. E il contesto erano gli appalti contrattati tra partiti e imprese. Chiunque avesse un ruolo in quel sistema criminale non poteva essere innocente, perché uno onesto nel sistema non ce lo tenevano. Poi si inalbera Davigo alla domanda: voi però allora l'opposizione non l'avete colpita. Non è vero, questa è una leggenda diffusa d'arte per screditarci. Io stesso condussi una perquisizione a Botteghe Oscure, cioè la sede dell'allora Partito Comunista. Forlani fece una figuraccia, su Craxi si trovarono le prove, invece su altri non trovammo le prove. E oggi com'è la situazione? È peggio di allora, come in quella barzelletta inventata sotto il fascismo. Il prefetto arriva in un paese, lo trova infestato da mosche, si lamenta col podestà dicendo: ma qui non si fa la battaglia contro le mosche. Certo che l'abbiamo fatta, ma hanno vinto le mosche. Ecco, dice Davigo, in Italia hanno vinto le mosche, i corrotti. Ma avete capito bene? E poi rilancia questa idea: bisognerebbe utilizzare operazioni sotto copertura per scoprire i corrotti, come si fa con i trafficanti di droga o di materiale pedopornografico. Mandiamo i poliziotti a offrire denaro ai politici e arrestiamo chi accetta. Lo diceva anche Cantone: anche se ora ha smesso di dirlo, lo capisco e non aggiungo altro. Beh, anche qui la polemica molto dura col presidente dell'Associazione Nazionale Anticorruzione. Ancora, dice Davigo, non ci sono troppi prigionieri, ci sono troppe poche prigioni. Lei ha detto anche questo. Sì, ma non è un'opinione, è un dato oggettivo. L'Italia è il paese d'Europa che ha meno detenuti in rapporto alla popolazione. È il paese della mafia, dell'andrangheta, della camorra, della sacra corona, della corruzione diffusa. Certo che servono nuove carcere. Con le frontiere ormai evanescenti, i paesi con una repressione penale più forte esportano crimine. Le racconto questa. Una volta a San Vittore trovai un borseggiatore cileno. Era stato arrestato 4 volte in un mese. Mi accolse con un sorriso. «Che bel paese, l'Italia!» mi disse. Prima era stato arrestato a Ottawa, in Canada, ed era stato in galera 2 anni. Insomma, Piercamillo Davigo, in questa intervista che ho anche sintetizzato, dice tante altre cose interessanti, ma questi sono i punti fondamentali. Sul Corriere della Sera lo trovate. Mentre, signori, signori, lo spettacolo della puntata 2894 del ritiro, forse no, forse sì, di Bertolaso dalla candidatura a sindaco a Roma. Continua, Berlusconi tiene su Bertolaso. Lo scontro dentro Forza Italia è articolè, è paginate. Invece di dedicare 5 righe a queste cose, cosa che farebbero in un qualsiasi paese abbastanza serio, dove la stampa politica è un po' più seria, qui paginate, paginate sugli psicodrammi, va, resta, resta, rimane. Il Corriere dedica 2 pagine, il Repubblica dedica 2 pagine, tutti che dedicano 2-3 pagine. D'altronde, quando hai tanti giornalisti nelle redazioni che devono scrivere, poi devi farli scrivere. E Berlusconi, Berlusconi su Repubblica dice, dice ai suoi: voi pensate che io sia un vecchio rincoglionito, ma non sono un vecchio rincoglionito come voi volete far credere. Punto. Mauro Meazza, buongiorno. A proposito di... A proposito di Sole 24 Ore, Mauro Meazza. Ecco. Allora, buongiorno innanzitutto, perché buongiorno. Non ho capito se era per il troppi giornalisti in redazione che ho lo dico. No, del vecchio, eccetera. No, neanche quella cosa lì. Va bene, possiedi una TV? Sì, anche più di una. Allora va bene, pagherai il canone, sì, come è giusto, certo. Se invece tu non avessi avuto la TV, sappi che per dichiarare di non possedere la TV, quindi non pagare il canone in bolletta, c'è stata una piccola proroga. Il termine per l'invio va al 16 maggio. Ah, non più il 30 aprile? Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, nelle pagine di Norme e Tributi, che tu come sempre devi leggere religiosamente. Bravissimo. L'abbiamo detto anche quasi all'unisono. Poi lavoriamoci un po'. Ora, ti voglio poi dire, possiedi una Volkswagen? No. No, va bene, è peccato, perché se tu avessi avuto una macchina del genere e vivessi in California, sappi che stanno arrivando risarcimenti per 500.000 vetture, naturalmente di quella casa. Trovi anche questo sul Sole 24 Ore di oggi, però nelle pagine iniziali. Hai forse invece 89 milioni di rosso, di debiti? Di rosso... Sei sicuro? No, perché c'è un titolo nelle pagine di finanza, Milan in rosso per 89 milioni. Ah, così me lo spiattelli così. Ti invito a leggere, adesso non vorrei che avere rivelato cose tue che volevi tenere più nascoste, però leggi le pagine di finanza come sempre avidamente, sì, e scoprirai tra le molte altre notizie c'è anche questa notizia: Milan sei in rosso per, cioè non so se sei tu o la squadra, c'è sempre questa confusione che appunto ti riguarda, 89 milioni. Poi hai capito come sta funzionando il meccanismo delle pensioni, che cosa la prenderò mai, quindi mi rifiuto a priori. Ma non è vero, non perdere la speranza. Comunque ti invito a leggere il resoconto che presentiamo oggi nelle prime pagine del Sole 24 Ore, cosa è in vigore di già per andarsene prima, in un certo senso, per qualche scorciatoia, e cosa invece si sta ancora discutendo. Quindi potrebbe succedere, ma non è ancora successo. Il riepilogo ordinato oggi lo trovi sul Sole 24 Ore. così come troverai sul Sole 24 Ore anche un ritorno, un approfondimento sul decreto mutui di cui già ti ho parlato ieri, quello per capirci, in cui sta scritto anche che se non paghi le rate del mutuo dopo 18 mesi la banca diventa, ti toglie l'immobile, esatto. Oh, e poi ti voglio anche, ricordandoti che domani c'è Plus, sì, e augurandoti non una buona domenica, no, ma un ottimo lunedì. Ma perché giochiamo lunedì? Così ho scoperto dal calendario del campionato. Non so neanche con chi. Non ti sento appassionatissimo. Comunque io ti auguro un ottimo lunedì. Mi ha strappato un punto al carpi. Però visto che hai la domenica libera, non è che puoi aiutare a smaltire le domande del condone edilizio? No, perché se vi affidate alla mia competenza, leggendo oggi sul Sole 24 Ore scopro che ci sono 5 milioni di domande, ed è una stima, di condono ancora da esaminare. Sai, è roba che risale anche agli anni 80, piano piano le carte si accumulano e queste cose, come dire, com'è che dice il vostro jingle, sono cose che succedono? Sono cose che capitano. Sono cose che capitano. Bene, e tutto ciò premesso, buon fine settimana, un ottimo lunedì ti auguro io, con tanti tanti cari auguri per il vostro pomeriggio. Grazie. E soprattutto, traffico! Alessandro Bilian, il zozzo nero dell'informazione! Vabbè, mamma mia, quanto astio per una squadretta da sesto, settimo posto. Stiamo centrando il nostro obiettivo per il quale siamo stati costruiti, una squadra da sesto, settimo posto. Siamo, credo, sesti? Lorenzo Nespoli, sesti? Peter Bescabè, sesti. E allora, stiamo centrando tra sesto e settimo posto l'obiettivo migliore, e quindi campionato in linea e discretamente positivo. Magari ci scappa anche il miracolo della Coppa Italia, e se no perdiamo nei confronti di chi è molto più forte di noi. E Ale. Allora, dai, andiamo al Fatto Quotidiano, dove Antonio Massari e Davide Vecchi raccontano che alla fine il fedelissimo amico Marco Carrai, fedelissimo amico di Matteo Renzi, dovrebbe farcela ottenere non tanto la nomina al Dipartimento Informazione per la Sicurezza, cioè i servizi segreti, come mega responsabile da cyber security, ma almeno una consulenza. L'idea è quella di mettere Carrai a una consulenza, dovrebbe firmare settimana prossima per un incarico da circa 70.000 euro e si stanno studiando a Palazzo Chigi le normative per fare questo tipo di consulenza da affidare a Carrai, stabilendo anche se secretarla oppure no. Questo risulta al Fatto Quotidiano, e questo il Fatto scrive a pagina 6. Oh, c'è anche molto del tema migranti, che è un tema che rimane lì come una spada di Damocle su tutta l'Europa. Beda Romano racconta di come ci sia un sì dell'Unione Europea al piano italiano. Il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha scritto una lettera a Renzi, firmata tra l'altro con tanto di cuoricino, questo è stato messo in pagina da tutti i giornali, così come dettaglio sentimentale, mettiamola così. Juncker a Renzi dice sì al piano italiano, cioè il finanziamento anche con gli eurobond per affrontare l'emergenza immigrazione. Nella missiva, racconta Beda Romano, l'ex premier lussemburghese, oggi presidente della Commissione europea, accoglie positivamente le proposte italiane per regolare meglio i flussi migratori. È cauto in realtà sull'idea di finanziarle con le controverse obbligazioni europee. Quindi il piano è approvato sulla questione degli eurobond. In realtà, appunto, Juncker è un po' cauto, anche perché su questo sapete che la Germania non ci sente. Comunque sull'immigrazione ci sono tanti articoli, come ci sono tanti articoli di cronaca nera. Io, guardate, ve lo segnalo, non voglio neanche leggerlo, questo della vicenda degli aborti imposti, le lesioni ai neonati, succedeva in un ospedale di Reggio Calabria secondo le accuse. Guardate, leggetevi tutto sui vari giornali che trovate, se volete. Io passo oltre. Segnalo però che Walter Foffo, che è quello del delitto Varani ha risposto a Pietro Maso. Sapete che Pietro Maso aveva scritto a Walter Foffo e Foffo gli ha risposto in una lettera: vergognati, hai ucciso, non sei pentito, non scrivermi più. Insomma, vabbè, ti fai pubblicità al tuo libro approfittando del mio caso, mentre io non mi do pace per ciò che ho fatto. Tu invece nomini tuo padre, non avresti neanche il dovere di nominare chi ti ha dato la vita. Insomma, la lite tra Pietro Maso e Foffo. Oh, ci sono anche molti articoli sulla morte di Prince, star del pop, star della musica. Tutti amici di Prince oggi. Io l'ho detto già, non mi piaceva granché la sua musica, non l'ascoltavo, non ne sono un cultore, non ne ero un fan. Comunque, insomma, tutti i giornali scrivono di due pagine almeno la morte di Prince, misteriosa, è stato trovato morto in un ascensore. Ora leggo dalle agenzie, non lo trovate sui giornali, ma insomma i primi dettagli sono che una settimana fa Prince era stato ricoverato per una overdose di oppiacei e non una banale influenza come avevano detto dopo un concerto. Overdose di oppiacei una settimana fa e forse una crisi respiratoria, non si sa. Comunque è stato trovato morto nell'ascensore di casa sua Prince, il re del pop, e trovate ovviamente tanti articoli su questo. Ma eccoci qua, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Visto che siamo in diretta sul mio profilo, sulla mia pagina pubblica Facebook, voglio raccontarvi ciò che racconta La Stampa. Dov'è la stampa? Eccola qua, La Stampa. Anche George, il Beagle George, è una star del web. Ha la sua pagina pubblica, Beagle George, un cane così popolare che sul web si è autoproclamato personaggio pubblico e La Stampa gli dedica un quarto di pagina. George, il Beagle, star del web. Sentite qui, due punti, aperte virgolette. Regalo sorrisi ai miei fan. Ma un Beagle non parla! Ma chi se ne frega!